America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Mario Platero. A sorpresa, Donald Trump ha licenziato James Comey, il capo dell'FBI, per la non professionalità con cui ha trattato le inchieste sulle email di Hillary Clinton e per aver peggiorato la situazione rivelando l'esistenza di nuove email a una settimana dalle elezioni. Trump è stato chiaro, l'FBI ha detto ha bisogno di un nuovo inizio. Non c'è ancora un successore, dunque torneremo su questo tema nei prossimi giorni, perché oggi da Milano voglio ragionare sulla visita di Barack Obama. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Is that how you say? Vi avevo detto che sono qui in città per seguire un convegno al quale ho partecipato ieri, ma anche per approfittare della visita di Barack Obama che c'è stata sempre ieri. E devo dire, Barack Obama è ritornato sulla scena in ottima forma e ho avuto come l'impressione, soprattutto nella prima parte di questa sua conversazione, che ha avuto nel contesto del convegno Seeds and Chips alla fiera. Seeds and Chips è una manifestazione pensata da Marco Gualtieri che vuole un po' diventare un punto di riferimento per la discussione sull'innovazione alimentare. Ecco, all'inizio, come dire, ho avuto l'impressione di sentire un po' un Obama confidential. Obama che racconta la sua vita dopo la Casa Bianca. Cosa fa? Sentiamolo. You live in what's called the bubble. It is a very nice prison. Qui Obama dice, insomma, ci sono delle cose che sicuramente non mi mancano dalla Casa Bianca, perché si vive in una bolla, si vive in una sorta di prigione, non si può fare nulla, è una vita sacrificata in fondo, però oggi ho recuperato la mia libertà, con un'eccezione, dice, nel momento in cui vado a fare una passeggiata, vado a prendermi un caffè, mi fermano tutti che vogliono fare un selfie, e questa storia dei selfie mi sta, come dire, facendo venire un pochino il nervoso, perché come tutto finisce per diventare un eccesso. Ecco, Obama ha raccontato del suo rapporto con Michelle, ha raccontato soprattutto della sua nuova missione, quella di utilizzare la sua fondazione per formare dei giovani attivisti. E dunque Obama a un certo punto nella conversazione di ieri ha cominciato a fare politica. Ecco, ci sono state dal mio punto di vista molte sensazioni, avendo seguito Barack Obama come presidente, cioè è un uomo che, giovane, molto giovane ancora, si sta reinventando. E ho con me i microfoni di America 24, così per esplorare questo nuovo Obama, Maurizio Molinari, direttore della Stampa e compagno di innumerevoli viaggi al seguito di Barack Obama quando era alla Casa Bianca. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Allora, insomma, ci siamo ritrovati insieme di nuovo in una stanza con Barack Obama che parlava. Che sensazione ti ha fatto, Maurizio? Innanzitutto mi ha colpito che aveva molti capelli grigi, io me lo ricordavo, diciamo, con più capelli neri e sicuramente più giovanile. Devo dire che anche la scelta di non avere la cravatta l'ha fatta apparire meno presidential, e questa cosa di avere un look più sportivo in qualche maniera, secondo me, lo indebolisce. Io capisco che lui voglia sembrare più giovane, più cool, sempre in sintonia con i più giovani, però la realtà vera è che la parte più forte e più alta di Barack Obama è la sua oratoria presidenziale, che nel finale ha sfoggiato quando ha detto che la storia a volte può prendere delle curve sbagliate, ma poi alla fine va sempre nella direzione giusta. Ecco, quello è stato un passaggio molto interessante. Voglio far sentire ai nostri ascoltatori un altro passaggio che secondo me è stato interessante, quando sottolinea l'importanza della partecipazione e dell'attivismo soprattutto per i giovani. Sentiamo. But as I always tell people, you get the politicians you deserve. Ecco, qui Barack Obama dice una cosa molto precisa, cioè nelle nostre democrazie la gente ha la tendenza di dare un po' le colpe ai politici quando le cose non funzionano. E io però dico anche, ma no, tu ti becchi il politico che ti meriti se non rifletti, se non ti impegni, se non pensi. E dunque questa mia fondazione vorrebbe coinvolgere i giovani per farli pensare. Ecco, tu credi che questa nuova missione di Obama abbia un senso, possa davvero raggiungere qualcosa, che davvero abbiamo i politici che ci meritiamo? Secondo me questo è il cuore di quello che tu dici, cioè il nuovo Obama che abbiamo visto assieme. E io devo dire che, ascoltandolo vicino a te, spesso pensavo a Bill Clinton. La fondazione più importante di un ex presidente è stata per molti anni in America, sappiamo, la fondazione Clinton. La fondazione Clinton era un'altra cosa, la ricerca, lo sviluppo, le idee, i grandi progetti, cavalcare la globalizzazione. Invece Obama cosa dice? Io non vado dall'alto al basso, ma dal basso all'alto, e comincio dai giovani. Questo fatto di voler essere il punto di riferimento della crescita e dell'evoluzione delle sfide dei millennials è ciò che lo distingue in America e anche dal suo predecessore fra i liberal più nobile, Bill Clinton. Ecco, è stato anche un messaggio forte, mi è sembrato almeno molto forte, contro il populismo, contro la superficialità, contro il ridurre tutto a uno slogan, contro il fake news. Ha parlato a un certo punto dell'importanza del giornalismo, quindi indirettamente secondo me ha lanciato delle bordate piuttosto pesanti, da una parte contro Donald Trump, ma dall'altra anche contro coloro che in Europa immaginano che il populismo o il nazionalismo possa davvero cambiare le cose. Che dici, Maurizio? Assolutamente sì, e anzi direi di più, che lui ha fatto un'analisi economica che va al cuore della minaccia del populismo. Cioè, quando lui dice attenzione perché le nuove tecnologie, che sì sono positive ma poi distruggono i posti di lavoro, bisogna pensare prima a coloro che perdono i posti di lavoro. E questa è la vera risposta capace di disinnescare la protesta populista. In questo si è dimostrato un leader visionario, cioè è andato oltre il dire i populisti sono il fronte sbagliato perché la protesta miope e cieca, ma bisogna dare noi una risposta strutturale al fatto che milioni di persone rischiano di perdere il lavoro a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie. Ecco, infatti, il messaggio, devo dire, sulla tecnologia è stato molto molto interessante. C'è stato anche un po' un, come dire, un memory lane. C'era Matteo Renzi, c'era Mario Monti, hanno dialogato a distanza, si erano visti prima, si sono visti ieri sera. Ecco, è una sponda anche, se vuoi, per i nostri politici, questo viaggio di Barack Obama a Milano. Il suo primo viaggio all'estero l'ha fatto a Milano, una cosa che devo dire mi ha colpito. L'ha fatto a Milano perché in questo momento è sicuramente una delle città europee più vivaci e più vibranti. Certo, vedere seduto vicino l'uno all'altro Monti e Renzi, che sono stati feroci avversari politici in Italia, ma entrambi interlocutori di Obama, in qualche maniera ci dice quanto l'Italia è divisa e quanto l'America è in grado di parlare con più Italia contemporaneamente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Maurizio, cosa ci inventiamo? Barack Obama a Milano, Barack Obama che ritorna. Cosa vogliamo far ascoltare? Beh, io pensavo ai Pink Martini con il loro Now I'm Back. Pink Martini, But Now I'm Back. E certo, Barack Obama è tornato sulla scena. I'm here to see you. Won't you please, please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. Da Milano è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.